Giovedì 15 ottobre 2009, all'interno della trasmissione Baobab Multimedia della Rete 3 della RSI, presentazione del Laboratorio di Informatica Popolare e di Indimedia. Baobab Multimedia. Partiamo da un indirizzo internet. lip.noblogs.org. Questo è il blog che riporta il programma ufficiale del LIP 2.0, seconda edizione del Laboratorio di Informatica Popolare, i cui corsi si tengono al centro sociale autogestito Il Molino di Lugano. Conferenze, presentazioni e proiezioni sui temi più disparati, dalla sicurezza informatica alla grafica vettoriale. Gli ospiti di questa puntata, tutti appartenenti al collettivo Indimedia, che cura l'organizzazione del LIP, li chiameremo solo con i loro nickname. Una piccola regola che nessuno viola nell'ambito di Indimedia per proteggere la propria privacy. E infatti oggi ci concentreremo proprio sugli aspetti legati alla pubblicazione online e ai risvolti nella nostra sfera privata. Ma iniziamo a capire che cosa si intende per informatica popolare, in compagnia di Om, il nostro primo ospite. Multimedia. La nostra idea è che l'informatica è una questione molto attuale, di cui si discute, che fa parte della vita di tutti i giorni. L'informatica la troviamo negli elettrodomestici, la troviamo in strada, quando camminiamo e le videocamere ci sorvegliano, quindi non si può essere indifferenti all'informatica. Pensiamo che sia importante approcciarsi a questa cosa con un'ottica diversa, quindi al di fuori dalle logiche commerciali e con dei valori dietro, quindi per esempio la privacy, quindi per esempio un uso politico dell'informatica. È per questo che abbiamo proposto per il secondo anno consecutivo questa serie di corsi. Proposti appunto al centro sociale autogestito Il Molino a Lugano. A chi sono rivolti e come funziona praticamente, insomma, una di queste serate? Bisogna portare un proprio computer, c'è già tutta l'infrastruttura? Allora, sono dei corsi rivolti non a un pubblico di esperti, questo è importante citarlo, ma a un pubblico di curiosi, nel senso, io senza avere chissà quali competenze voglio imparare qualcosa, voglio capire come funziona un determinato meccanismo, un determinato strumento, quindi l'unica cosa indispensabile da portare è la curiosità. Poi può essere utile, soprattutto per certi corsi, avere un computer portatile, comunque ce ne sono alcuni a disposizione, però ovviamente se uno può mettere le mani sul proprio mezzo può essere più facile. E forse è importante dire che noi abbiamo una preferenza per i sistemi aperti, quindi Linux, però non è indispensabile, qualsiasi persona col proprio sistema operativo può venire a questi corsi, perché i programmi che impareremo a usare sono multipiattaforma, quindi utilizzabili da chiunque. Partiamo un po' dal presupposto che se uno ha una buona idea ma non sa comunicarla potrebbe trovarsi davanti a un muro, quindi noi insegniamo, per esempio ci sarà un corso di grafica pensato per fare i volantini. Tu hai la tua bella idea, vuoi coinvolgere delle altre persone, realizzare un volantino denso di comunicazione può essere importante farlo, così come aprire un blog. Mettiamo, con la mia associazione di Amici degli Animali voglio far passare un messaggio, può essere utile avere un blog con cui comunicare con le persone interessate al tema. Molte volte è importante anche sapersi difendere dal web. Certo, con i social network e questi nuovi modi di comunicare, con molta leggerezza si divulgano delle informazioni molto personali e non si sa che uso ne verrà fatto. Sappiamo che ci sono le multinazionali molto interessate ai nostri dati personali. Ci può essere lo Stato o la polizia a cui interessa sapere che cosa stiamo facendo, e quindi è importante essere coscienti di che informazioni si stanno divulgando, a chi possono essere reperite e come fare eventualmente per proteggersi. Se io voglio navigare in maniera anonima, per mille ragioni lo devo poter fare. Infatti ci saranno dei corsi proprio su questo. Il Laboratorio di Informatica Popolare LIP è organizzato dalla parte italofona del collettivo di Indimedia Svizzera. Detrito, questo è il nickname del nostro secondo ospite, ci spiega chi sta dietro alla versione elvetica di Indimedia e quali sono i suoi obiettivi. Indimedia è un network di comunicazione libero che è nato in Svizzera, mi pare, nel 2001. A seguito un po' del movimento anti-global, così. E un network che si prefigge l'informazione, però dal basso, diciamo. mentre i media tradizionali sono gestiti da imprese, suoi più o meno grandi, giornalisti di professione. In indie media può scrivere chiunque e non è che diffondiamo le stesse notizie, ma anche notizie delle quali magari gli altri non si occupano. Nei primi anni del 2000 questa cosa era abbastanza rivoluzionaria comunque, perché il web era ancora... la maggior parte della gente lo leggeva semplicemente e poter pubblicare in un sito era una cosa nuova. Al giorno d'oggi invece è una cosa altamente diffusa, chiunque può aprire il suo blog. Ora come ti sembra cambiata? Non è più così necessaria, forse come qualche anno fa, nel senso che ora ci sono blog e siti a disposizione un po' per tutti i gusti? Sì, sicuramente ha perso un po' il ruolo che aveva 5 anni fa, dove era molto seguita, anche molta gente ci scriveva. Ha un po' perso di importanza, ma secondo me dal punto di vista della qualità di informazione è più affidabile che un blog dove non sai più o meno chi scrive. Indie media è gestito da un collettivo e quindi più o meno se una cosa viene messa in prima pagina ci sono, non so, quelle 5-10 persone che la provano, quindi diciamo c'è una affidabilità non da sottovalutare comunque. Tutto questo però immagino che tu lo faccia nel tempo libero, insomma non è la tua professione. Qual è il tuo ambito lavorativo in realtà? No, assolutamente no, io non ho niente a che fare col giornalismo. Questa è un'attività alla quale ci dedichiamo con il nostro tempo libero e appunto non è nemmeno lo scopo farlo professionalmente. Noi scriviamo quello che viviamo tutti i giorni, quello a cui partecipiamo, i progetti ai quali siamo impegnati. Poter contribuire a Indie Media è molto facile, basta collegarsi al sito ch.indiemedia.org. Scrivere un articolo lo può fare chiunque, comunque ci sono gli articoli principali, quelli approvati dal collettivo, e poi un po' da parte, comunque visibili tutti, gli articoli che scrive chiunque. Indie Media o Independent Media Center è una rete di mezzi di comunicazione di massa e di giornalisti nata nel novembre del 1999 per dar voce alle proteste del movimento No Global contro la World Trade Organization a Seattle. Here in Seattle, there's farmers from Asia, from South America, from Africa and Europe, and we are all together in Via Campesina. We are not going to stop it today. No, it's beginning. No, it's only a, it's not only a fight for one day or 2 days. The fight for many. Non odiare i media diventa i media. Questo è lo slogan del progetto Indie Media. Gilt, nome in codice della nostra terza ospite. C'è un bellissimo film, tra l'altro, Ide Film si chiama, che parla della nascita di Indie Media, come è nata da un bisogno, che era un bisogno di informazione a prescindere da quello che era l'informazione che veniva diffusa all'epoca, che era un'informazione mainstream, quella che adesso viene chiamata mainstream. Indie Media quindi ha risposto a un bisogno, molti collettivi sono riuniti e hanno dato vita a questo network. It has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Ok, fin qui tutto chiaro. Sappiamo quali sono le finalità del progetto Indie Media e chi lo ha ideato. Rimane però da chiarire il meccanismo di diffusione dell'informazione, che vuole essere diverso da quello dei media tradizionali, la cosiddetta informazione mainstream. Ci saranno pure delle regole perché una notizia, una testimonianza possano essere ritenute attendibili, con fonti affidabili. Continuiamo a parlarne con Detrito. Multimedia. Le regole non sono tanto sulla affidabilità dell'informazione, dove diciamo uno può fare un commento e dire guarda che questa cosa non è vera, io ero lì, l'ho vista in maniera diversa. Le regole di Indie Media sono più che altro sul contenuto di quello che uno scrive. La policy di Indie Media prevede che gli articoli razzisti, sessisti o commerciali che facciano pubblicità o anche che ledano la privacy degli individui possono venire nascosti. Dunque questi sono un po' i paletti, no? Per non uscire e che ci vogliono anche in un collettivo di questo tipo. Al di là di questo però comunque Indie Media ti permette di avere una varietà di articoli magari maggiore rispetto a un media tradizionale, un modo di esprimerti anche diverso. Un'altra particolarità di Indie Media, forse che è importante sottolineare, è la difesa della privacy. Indie Media già 10 anni fa aveva dei meccanismi per i quali non venivano registrati ad esempio l'indirizzo IP che è l'indirizzo fisico del computer del quale si scrive, e anche i nomi, ad esempio se uno scrive il nome di qualcuno, se non è un personaggio politico importante, comunque per rispetto di questa persona noi lo cancelliamo il nome. Tra di loro si chiamano indiani, sono gli utenti, i partecipanti al collettivo Indie Media. Oggi ci sono centri Indie Media un po' in tutto il mondo, tra cui anche Indie Media Svizzera. Ma gli indiani si conoscono solo virtualmente o capita anche di incontrarsi fisicamente, magari in occasione di congressi? Risponde Detrito. Beh, il Ticino alla fine è piccolo, quindi ci si conosce comunque abbastanza. A livello svizzero, con i romandi, con gli svizzeri tedeschi, abbiamo un po' meno contatti, anche se capita sempre qualcosa di trovarsi, e una volta l'anno abbiamo sì un raduno nazionale dove si discute un po' dei problemi che sono sorti durante l'anno e si può anche chiacchierare, eccetera eccetera. Bao Bab. One big road with a lot of signs, signs and more signs, you gotta make up your mind. Life is one big road, road. Many a sorrow, many a joy, never you try to take life for a toy. Some doing good and some doing bad, but these type of bad doing driving me mad. But when the sun shines today, I go on my knees and I pray. But when the sun shines today, I go on my knees and I pray. I say, Lord, sun shines today, I go on my knees and I pray. You gotta make up your mind to face reality all the time, no. You gotta make up your mind to face reality all the time, no. Many a sorrow, many a joy, never you try to take life for a toy. Something good and something bad, but these type of bad doings driving me mad. But when the sun shines today, I go on my knees and I pray. But when the sun shines today, I go on my knees and I pray. I say, Lord, sun shines today, I go on my knees and I pray. You gotta make up your mind to face reality all the time, no. Oh no, no, no, no, no, no. People in a sorrow, thinking about today but they're not thinking about tomorrow. What type of life are we living? Murderation, raping and killing and sin. No, no, no, no, no, no, no. People in a sorrow, thinking about today but they're not thinking about tomorrow. What type of life are we living? Babylon judgment. Multimedia. Indie Media, una rete globale di informazione alternativa e indipendente, nata nel 99 per fornire una copertura mediatica dalla base, quindi non gerarchica e popolare, alle proteste legate alla riunione del World Trade Organization di Seattle. Nickname, Jilt. Collettivo, Indie Media Italia. Argomento, privacy e pubblicazione online. Indie Media, con la sua lunga esperienza, ha avuto modo di confrontarsi con i problemi relativi alla pubblicazione online prima di altre situazioni. Le chiamo situazioni, sono interfacce web, però sono situazioni sociali. Facebook è una situazione sociale, YouTube altrettanto, e si tratta di pubblicazione aperta, che era la cosa fondamentale quando è nato Indie Media, nel senso che Indie Media ha fatto il suo cavallo di battaglia con la pubblicazione aperta. Dopodiché è venuto Google, sono venuti Facebook eccetera, che hanno, diciamo, sfruttato questa caratteristica del World Wide Web, wild, molto wild, e di fatto le tecnologie al giorno d'oggi vengono spesso usate per raccogliere dati, e questa è un'altra cosa di cui è importante essere consapevoli nel momento in cui ci si confronta con una società che è una società della tecnologia ed è anche una società del controllo. Quindi pubblicare dati online ha un certo valore. Quindi ogni persona deve avere la consapevolezza nel momento in cui pubblica, come nel momento in cui cammina per strada, che quello che lui fa o quello che lui pubblica online viene ripreso e può essere utilizzato in diverse maniere. E da questo nasce anche l'esigenza di un laboratorio di informatica popolare, credo, perché le persone devono essere consapevoli di quello che fanno. Baobab. Nell'era del web 2.0 e della pubblicazione aperta sul web, c'è ancora una sfera privata? Come si riflettono nella realtà le dinamiche sociali su internet? Gilt, la nostra ospite, ci mostra un esempio. La ragazzina di 13 anni che ha il profilo Facebook e che si scambia chiacchiere con gli amici che sono un po' invidiosi perché lei è la più bella della classe. Allora continuano a chiacchierare male di lei, chiacchierano, però su Facebook c'è anche l'insegnante. L'insegnante viene a sapere le chiacchiere, non le cose vere riguardo alla studentessa. Non è che va dalla madre a parlare dei voti della studentessa, ma gli va a parlare di Facebook. La settimana prima che la studentessa ha l'esame di Stato, la madre impazzisce perché si rende conto che la gente dice delle cose di sua figlia solo perché sua figlia si mette il rossetto a scuola e quindi castiga la figlia non ha il coraggio di andare all'esame, vuole andare all'esame coprendosi la faccia perché ha paura di che cosa, delle chiacchiere che hanno fatto su Facebook i suoi amichetti, magari basate su una foto, può essere una cosa piccolissima su cui si è costruito un castello. Situazioni virtuali che hanno conseguenze anche molto spiacevoli sulla vita reale, ma tu hai fatto un esempio così campato per aria oppure sai che questa cosa è successa, cioè gli insegnanti vanno veramente a vedere i profili dei loro studenti? Solo gli insegnanti, anche i datori di lavoro, l'attenzione durante la pubblicazione è importantissima perché le dinamiche sociali che stanno al di sotto dell'interfaccia che noi vediamo, della situazione che noi viviamo, spesso non sono dinamiche di cui siamo consapevoli e sono patemi sociali che ci vengono dal fatto che c'è una possibilità per chiunque di pubblicare apertamente dei dati personali degli altri e di manipolarli. Gilt, abbiamo fatto l'esempio dei social network, magari facciamo anche un altro esempio. Uno dei problemi è quello, immagino, di YouTube. Abbiamo fatto il nome così del canale principale, ma ce ne sono molti altri di simili. Ecco, facciamo magari qualche esempio in questo senso con le immagini video. YouTube permette di pubblicare immagini online ed è un mezzo molto importante, come lo è stato Indymedia una volta, nel senso che ad esempio in situazioni come la Birmania, le rivolte sono state in Birmania, o situazioni gravi in cui le istituzioni reprimono la popolazione e non lasciano passare le informazioni che vanno a discapito di quella che è il potere istituzionale, allora strumenti come YouTube, strumenti di pubblicazione aperta possono essere molto importanti, ma bisogna stare anche molto attenti perché le stesse persone che inseguono le persone che vogliono pubblicare su YouTube le malefatte delle istituzioni sono le persone che andranno a vedere il video e andranno a vedere le facce delle persone che ci sono per controllare, per poterle poi reprimere, quindi diventa un'arma a doppio taglio. In quel caso lì bisogna stare molto attenti, ad esempio, bisogna riuscire a non pubblicare dei dati sensibili perché lì si tratta proprio di repressione vera e propria. E che cosa sono dati sensibili? Qua stiamo già parlando in gergo, insomma. Sono i nomi, sono i volti, è tutto ciò che rende riconoscibile una persona, può essere considerato un dato sensibile, anche una targa. Però è proprio quello che ci fa rendere credibile un'informazione, cioè io se guardo un TG forse non ho bisogno della targa, però ho bisogno di poter vedere la persona, ho bisogno di capire. Sì, questo è da un punto è uno dei paradossi di Indymedia, questo, la questione dell'origine, nel senso che la fonte è considerata credibile grazie alla sicurezza dell'origine. Spesso nelle informazioni questo succede nel mainstream. Indymedia non fa questa cosa, rinuncia alla credibilità dell'origine e dà valore al collettivo, cioè al fatto che il collettivo mette insieme i contenuti per dare una certa notizia, per passare un certo contenuto, e allora si va a discapito della fonte, e questa è una cosa rivoluzionaria all'interno del giornalismo. Gilt, stavamo facendo l'esempio di YouTube, vorrei ancora un ultimo esempio che è quello appunto delle telecamere che spesso ci spiano in città, insomma anche in questo caso che cosa succede così magari anche a nostra insaputa e come possiamo difenderci? L'efficacia delle telecamere di sicurezza è messa veramente in dubbio e tra l'altro si stanno diffondendo dei movimenti globali della gente che utilizza le telecamere di sicurezza per fare guerriglia marketing, cioè queste telecamere spesso molto tecnologiche, molto avanzate, possono essere tra virgolette bucate, molto semplicemente. In Italia il garante ne parla continuamente. Di fronte a una telecamera in un grande magazzino non è che possa fare un granché io, far valere i miei diritti, ma posso partecipare a questo dibattito sull'utilità o meno delle telecamere. Esattamente, ci sono i surveillance camera players, ormai sono in tutto il mondo gruppi di persone che fanno piccole performance di fronte alle telecamere. È appunto una discussione ed è di tipo culturale, è una discussione che è molto più profonda di quello che uno possa immaginare, perché non si ferma alla ripresa dell'immagine al momento, ma si approfondisce quello che è l'utilizzo del mezzo tecnologico oggi nella nostra società. Quindi il mezzo tecnologico usato per controllare e poi per punire ha senso o ha più senso un'educazione sociale di un certo tipo? Cosa diventa il cittadino? Diventa un controllato, diventa un consumatore controllato o dovrebbe essere qualcos'altro? Perché c'è di mezzo proprio un'evoluzione del concetto di cittadino. Se in questo caso della videosorveglianza non possiamo fare nulla, diciamo, sul momento, ma possiamo semplicemente partecipare a questo discorso, invece nel caso dei video che noi mettiamo online, lì sì, lì possiamo prendere degli accorgimenti, fare qualcosa. Magari, e con questo concluderemo, quali sono i suggerimenti e i consigli pratici che puoi dare in questo senso? I mezzi che utilizziamo, che sono Facebook, YouTube e così via, nascono esattamente dalla stessa società che fa le telecamere di sicurezza. Quindi nascono formulati in quella maniera per trattenere dati, per controllare la persona, l'utente in quel caso, no? Il cittadino, ma l'utente. Se usati in una maniera consapevole possono diventare qualcos'altro, perché utilizzano appunto la stessa dinamica di indie media, la pubblicazione aperta. Allora magari pubblicando il video della manifestazione, se non si può coprire le facce si riprendono solo i piedi e gli slogan. È questione di riuscire a mettere a fuoco il proprio obiettivo e di sapere con che cosa hai a che fare nel momento in cui pubblichi, qual è la situazione in cui sei nel momento in cui stai pubblicando.